Esercizio 4. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 3. Ho la macchina in panne, non funziona. Mi piace il pane fresco. È una donna intelligente. Smetto di studiare perché sono stanco. È una pena vederlo soffrire. Tutti sanno come sono andate le cose. Stasera ceno al ristorante. È sano come un pesce. In attesa di un tuo cenno di risposta, ti saluto. Vado a dormire, ho un gran sonno. Dona il sangue quando ce n'è bisogno. Aspetta, devo prendere una penna.